Allora, le canzoni devono lasciare sempre qualcosa di positivo. Infatti questa canzone è un messaggio positivo, sia era positivo. Questa canzone parla, questa canzone anzi vi attaccherà l'AIDS. Bye.